Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Ciao a tutti, benvenuti a Radio Picchetto. Oggi è il 10 agosto e al Campo Scout tutto bene. Io sono Michelle Strata del reparto Fenice della Spezia 1. Buongiorno da Radio Picchetto, io sono Giulia Giulia Sparti del reparto Everest, sono della pattuglia Pantere. Allora, oggi volevamo parlarvi di un'attività che abbiamo fatto qualche giorno fa, in cui ci sentiamo abbastanza protagonisti, noi esploratori ed esploratrici, perché appunto ci mette al centro dell'attenzione. Questa attività è Ask the Boys and the Girls e parla di una proposta che noi esploratori ed esploratrici diamo all'assemblea del CNJ. Ci sono vari argomenti di queste proposte, tra cui volontariato, pace, ambiente e solidarietà. Allora, la mia pattuglia, ovvero la pattuglia scoiattoli della Spezia 1, ha scelto di fare pace. E praticamente l'attività consisteva di scegliere di mettere insieme tutte le idee di tutte le pattuglie che avevano scelto quell'argomento e creare una proposta appunto da dare al CNJ. La nostra proposta del volontariato è stata un'applicazione che si chiama Care, che è appunto un'applicazione come se fosse Google Maps, però ci sono dei luoghi, come ci sono in Google Maps, delle associazioni, e i vari esploratori possono aiutare queste associazioni tramite questa app. Allora, secondo me, anche secondo la mia pattuglia, questa attività è stata molto carina perché ci siamo confrontati tra tutte le altre pattuglie e comunque ci ha preso anche prima del campo nazionale, perché abbiamo fatto delle attività come l'impresa e la missione che erano inerenti all'argomento scelto, come la pace, per esempio, e il volontariato, in caso di Giulia. Noi invece abbiamo fatto appunto, è stato anche per noi molto bello, perché anche come per esempio per la pattuglia di Michelle, noi abbiamo fatto appunto la missione in una casa famiglia ed è per noi è stato molto bello aiutare questa casa famiglia, abbiamo aiutato anche a pulire e appunto è stato molto bello dare un contributo anche nel nostro piccolo a questa casa famiglia che comunque è molto più grande di noi, una cosa più grande di noi. Adesso andremo ad ascoltare Nero Bali di Michele Bravi e di Elodie. Questo brano secondo me è molto fresco, è molto d'aria d'estate e io ogni volta che lo sento mi sento molto libera, molto in quest'area d'estate che è molto diversa da quella dell'inverno dove c'è la scuola, dove c'è stress, invece l'estate è molto più libera, più anche un po' più felice perché a differenza dell'inverno c'è la scuola e quindi mantiene. Adesso ritornando agli argomenti seri, parleremo di un brano che abbiamo letto grazie al QR code. Questo QR code è un codice che ci viene dato a ogni attività nazionale e questo brano è appunto collegato all'attività nazionale Ask the Boys and the Girls. L'inizio dell'avventura. Coraline scoprì quella porta poco dopo aver traslocato con la sua famiglia. La casa era molto vecchia, con una soffitta, una cantina e un giardino pieno di erbacce e di grossi e vecchi alberi. Date le sue notevoli dimensioni, però, non era occupata esclusivamente dalla famiglia di Coraline. I suoi ne possedevano solo una parte. Nel resto dell'edificio abitavano altre persone. Nell'appartamento del pian terreno, sotto quello di Coraline, vivevano Miss Spink e Miss Forblick. Le due donne erano anziane e grassocce e occupavano l'appartamento in compagnia di alcuni vecchi terrier scozzesi, che portavano nomi come Hamish, Andrew e Jock. In passato, Miss Spink e Miss Forblick erano state attrici e Miss Spink in persona le aveva rivelato a Coraline, non appena si erano conosciute. Il cuore del libro. Coraline prese una sedia e la spinse vicino alla porta della cucina. Ci salì sopra e si protese verso l'alto, inutilmente. Poi scese e andò a prendere una scopa nel ripostiglio.

Grazie a voi. Allora, ora dopo il brano dell'intervista lanceremo una canzone che si intitola Symphony di Clean Bandit. Allora, a parer mio questa canzone è molto bella e dà un sacco di felicità e l'ascolto spesso e mi è sempre piaciuta. Ieri siamo andati appunto in hike e era un hike di reparto, ovvero ogni reparto prendeva la sua strada e stava via un giorno, compresa la notte, per ritornare la mattina. Racconteremo precisamente la sera e il fuoco. Allora, noi di sera del reparto Fenice della Spezia 1 abbiamo fatto un tranquillissimo fuoco con delle canzoni come il nostro solito. Poi siamo usciti e abbiamo guardato le stelle perché avevamo davvero un panorama bellissimo perché eravamo molto alti di altezza. Noi invece non abbiamo fatto il fuoco, ma abbiamo direttamente guardato le stelle e abbiamo guardato alcune costellazioni e poi grazie a un'app che ci hanno fatto scaricare i nostri capi abbiamo visto appunto le stelle con questa applicazione ed è stato molto bello perché non avevo mai visto un cielo così stellato, anche perché dal nostro campo non si vedono molte stelle la notte, ma da lì, dato che eravamo comunque molto in alto, era un panorama bellissimo e doveva essere sfruttato. Allora, noi abbiamo dormito in un bivacco, in una casetta, e per arrivarci abbiamo dovuto fare delle salite abbastanza toste, però comunque ne è valsa la pena perché il panorama era davvero bellissimo e abbiamo raggiunto una vetta molto alta a piedi anche al mattino. Abbiamo visto l'alba e appunto alla sera, come ho già detto, abbiamo visto le stelle. Noi invece appunto abbiamo fatto anche noi delle salite molto ripide, quindi è stata abbastanza difficile, però poi non siamo andati proprio in una casetta, eravamo in un fienile di una signora e quindi abbiamo dormito a terra sul telone ed è stato molto abbastanza carino perché eravamo tipo tutti stretti ed è stato carino stare vicino agli altri esploratori del mio reparto e quindi è stato alla fine molto bello anche perché c'era un panorama bellissimo e ne valsa veramente la pena. Allora, ora un'altra canzone di Alicia Keys, Girl is on Fire. Adesso penso che faremo un argomento che interessa abbastanza a tutti perché penso che almeno una volta nella vita sia successo a tutti di ritrovarsi in un momento di disagio perché le persone che non fanno gli scout ti chiedono tipo ma voi cosa fate esattamente gli scout? E tu sei tipo ma ne facciamo varie cose, non te le posso spiegare così e quindi adesso faremo una rubrica sulle domande scomode che le altre persone strane agli scout fanno agli scout. Domanda numero 1. Cosa fate? Beh, ecco, la domanda più scomoda di tutte secondo me. Cosa fate? Ecco, tu come fai in una sola domanda a dire tutto quello che fai agli scout? Cioè, puoi fare gli scout per una vita, quindi non è che fai solo un'attività e quindi secondo me questa è la più scomoda. Domanda numero 2. Ma voi siete quelli con i calzettoni fino al ginocchio? Allora, sì, dipende, perché ci sono diverse divise, quella da campo, quella la divisa normale, quindi comunque alcune volte sì, alcune volte no, ma non è una cosa da vergognarsi o cose del genere, o come certe persone la mettono in cattiva luce, come per prendere in giro. Domanda numero 3. Ma voi siete quelli che vanno a morire sui monti? A me sembra un po' esagerata questa domanda, ma in che senso? Cioè, ok che facciamo gli hike lunghi sui monti, ma non ci vado a morire, sinceramente. Domanda numero 4. Ma voi vi pulite con le foglie? Allora, tenetevi stretti, tenetevi perché probabilmente svenirete. Agli scout ci si lava, meno di casa, ma ci si lava. E per esempio al campo nazionale facciamo una doccia ogni 3 giorni, ma ci sono i lavabi, ci laviamo, si spera. E comunque no, non ci puliamo con le foglie, abbiamo la carta igienica, state tranquilli. Domanda numero 5. Ma voi siccome siete poveri andate a vendere le cose nelle bancarelle? Sì, ok, facciamo autofinanziamento, ma non vuol dire che siamo così poveri da vendere anche le nostre cose. Vendiamo le cose fatte da noi. Per esempio noi ad autofinanziamento abbiamo venduto le torte e abbiamo fatto 45 euro, anche 50, non mi ricordo. Comunque non siamo così poveri. Numero 6. Ma voi siete le giovani marmotte? No, allora, spesso nei film dicono giovani marmotte, eccetera, eccetera, ma noi non siamo le giovani marmotte. Ci sono diversi gruppi, i più piccoli sono i lupetti, poi gli esploratori, i rover e poi andando i sempre senior, più i senior, eccetera. Voi fate sempre attraversare prima le vecchiette. Ma in che senso? Cioè, ok, devono attraversare pure loro, ma in caso le aiutiamo, ma non è che facciamo sempre attraversare prima loro, ci siamo anche noi, voglio dire. Domanda numero 8. Voi siete Boy Scout? No, no, non siamo i Boy Scout, siamo Scout e basta, perché Boy Scout si usava un sacco di tempo fa, perché prima c'erano solo i maschi, ora ci sono anche le femmine, infatti tipo quando ci vedono siamo lì, no, siamo Scout e basta, noi siamo femmine, e quindi niente, da ora in poi chiamateci solo Scout, perché Boy Scout non va bene, no. Adesso ascolteremo Wherever You Will Go, The Calling, dopo le domande abbastanza scomode sugli Scout. Da Giulia e Michelle un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao!